trovate questa nuova puntata di Down the Road a On the Road. Io sono Livia Napolitano, questa è Radio Libriamoci Web. Il racconto di questa settimana è stato scritto da me medesimo. Ho partecipato ad una gara tra amici della penna, dove gli appassionati dovevano cimentarsi con una parola comune legata ai malanni di stagione. La parola comune è febbre. Nelle settimane trascorse avete potuto ascoltare il racconto di Andrea Fabiani e quello di Annalisa Soldà. Questa è la volta di L'uomo che emanava calore, scritto ed interpretato da Livia Napolitano. Quella mattina il signorelle si alzò come sempre. Come sempre consumò la sua colazione e andò in bagno a liberarsi, convinto che senza essere completamente vuoti non si può essere pronti a riempirsi della giornata incombente. Quindi la corretta igiene, come sempre, ed il vestito intonato, come sempre. E come sempre prese l'autobus, quello della mezza, quello solito insomma, solitamente pieno di puzze, di odori, di frusci, di giornale, di sbirciate rubate. Quella mattina però il signor L notò stranamente che intorno a lui si era formato un insolito vuoto, un buco, una distanza tra lui e gli altri che solamente un osservatore come lui avrebbe potuto notare. Una impercettibile barriera, sì, ma una barriera fatta di sbuffi, di sciarpe allentate, di cappotti slacciati. Sulle prime non diede troppa importanza a quei gesti, attribuendoli, ahimè, al buco dell'ozono. Puntualmente si recò quindi in ufficio per occupare la sua stanza, la sua scrivania, la sua sedia. Ma anche lì, dopo un po', l'impercettibile distanza. Un collega che soffia, l'odiosa vicina che spalanca la finestra, l'amico di sempre che armeggia sul calorifero. Ed ecco avanzare l'amara verità. «Signorelle, lei emana calore!» gridò stupefatto il superiore entrando nella stanza. «In questa stanza non si respira, manca l'aria e il calore viene da lei! È lei che emana un calore insopportabile!» Tutti all'improvviso furono intorno al signorelle. Chi gli toccò la fronte, chi gli prese il polso. «Hai la febbre, presto, un termometro!» 39 fu il verdetto. Il signorelle si affannò a dire che stava bene, che non era mai stato così bene. Aveva persino fatto le scale a piedi e senza fiatone. I colleghi in coro risposero: «No, non è possibile, emani calore!» Presto venne chiamato il medico che si affrettò ad accompagnare il signorelle al pronto soccorso. Esami perfetti, da manuale di patologia clinica. Non c'era verso, il signorelle continuava ad emanare calore. Il caso finì sui giornali. Arrivarono specialisti da ogni parte per studiare il signorelle, ma nessuno riuscì a dare una spiegazione. Dopo mesi di osservazione passate ad elaborare le teorie più disparate, tutte regolarmente smentite da analisi ed esami di ogni sorta, i medici, piuttosto perplessi, decisero di dimetterlo. Per non ammettere i limiti della loro scienza di fronte a quel fenomeno che non riuscivano a spiegare, si limitarono ad affermare di aver dimostrato che il signorelle non era contagioso e perciò poteva tornarsene tranquillamente a casa sua. Passarono i giorni, si allontanarono gli amici, persino i parenti. Il signorelle, benché dichiarato non pericoloso, si ritrovò sempre più solo. Cominciò allora a cercare egli stesso soluzioni per placare quel fastidioso calore. Una di quelle mattine si alzò come sempre consumò la sua colazione e andò in bagno. Questa volta si spogliò completamente, stendendosi nella vasca, dove per sicurezza aveva aggiunto anche qualche cubetto di ghiaccio. Niente da fare, si squagliarono subito e l'acqua gli sembrò pure ribollire. Improvvisamente sentì allora come un senso di fastidio crescente. Tutto quel calore fino ad allora non percepito diventò insopportabile, una sorta di fuoco che lo divorava da dentro. Tornò nella sua camera. Si coricò allora al buio, si rigirò più volte nel letto, guardò in direzione del soffitto ed ebbe come un'illuminazione. Si alzò con impeto, corse verso il telefono, con mano tremula digitò quel numero che non aveva mai osato fare. E dall'altra parte una voce rispose: sei tu, è solo te che stavo aspettando. Il signorelle restò in silenzio, immobile ad ascoltare quella voce che lo faceva vibrare, mentre man mano sentiva quel fastidioso calore dal suo corpo svanire. Un colpo di tosse, un sospiro veloce e finalmente rispose: «Sì, sono io e solo di te ho paura».